Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, dalla Svizzera all'Australia, passando attraverso le ultimissime importanti novità per i controesodati in Italia. Anche oggi è davvero ricchissimo il menù della nostra trasmissione, che avrà un forte sfondo musicale. Tra poco capirete perché. Non perdetevi neppure le nostre offerte di lavoro all'estero, ce n'è una per ricercatori e scienziati in Europa che potrebbe interessarvi davvero tanto. La frase della settimana è copyright dell'economista Jeremy Rifkin. La ricetta per cogliere in Italia la terza rivoluzione industriale, quella digitale, e portare molti più millennials al governo. Credo che siano necessari molti più giovani tra i 18 e i 32 anni in tutte le pubbliche amministrazioni. Noi lo chiamiamo reverse mentoring, dice. I più giovani possono aiutare gli anziani nel digitale, per Rifkin. Parole che ben si accompagnano alla più recente fotografia dei dipendenti pubblici italiani scattata dal Forum PA, una media di 50 anni mal distribuiti e sfiduciati, quelli under 35 sono solo l'8% contro il 25% del Regno Unito e il 27% della Francia, gli impiegati under 25 e quelli neolaureati, sono praticamente assenti. A proposito di neolaureati, tra loro cala l'occupazione ma aumentano stabilità lavorativa, retribuzione e offerta. Se resta ancora lungo il tempo trascorso a cercare lavoro, a 5 anni dalla laurea il tasso di occupazione arriva all'84%, lo afferma Alma Laurea. Rispetto alla stessa rilevazione del 2014 il tasso cala del 2%, ma la stabilità del lavoro e il guadagno mostrano segnali di miglioramento. Il 72% dei laureati da 5 anni ha un contratto a tempo indeterminato o attività autonome, mentre la loro retribuzione media mensile è salita a 1.388 euro. E oggi noi prendiamo il volo sulle note della musica. Quando ho cercato anche di portare del lavoro in Italia, perché avevo l'opportunità di avere dei concerti qua, quindi magari cercavo dei colleghi italiani, sapevo che poteva far piacere, mi è stato addirittura una volta detto che non c'erano più le condizioni di lavorare insieme, delle cose assurde. Irene Abrigo, 27 anni, è una violinista in Svizzera. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Apertura, novità importanti per i controesodati. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che fa finalmente chiarezza su quali saranno le agevolazioni fiscali per chi torna in Italia. Ci spiega tutto Francesco Rossi, tra i fondatori del gruppo Controesodati, che si è battuto per il mantenimento delle agevolazioni. Abbiamo finalmente avuto la pubblicazione del tanto atteso decreto attuativo del MEF, decreto 26 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 132, che va a delineare chiaramente chi sono le categorie di soggetti beneficiari delle nuove agevolazioni sul rientro dei lavoratori in Italia. Innanzitutto la platea dei beneficiari, lavoratori dipendenti che si trasferiscono in Italia e che vengono assunti come lavoratori dipendenti appunto da un'impresa residente. Qui c'è una prima differenza rispetto alla legge contro esodo, che era il regime vigente fino al 2015, in quanto la platea è ristretta adesso ai lavoratori dipendenti, mentre la legge contro esodo si rivolgeva anche a lavoratori autonomi e a imprenditori, a delle start-up. I requisiti di questi lavoratori devono integrare 2 anni di permanenza all'estero a fini di lavoro o di studio, e per la prima volta si apre anche la porta a delle figure professionali provenienti da paesi extra UE. L'agevolazione consiste in una detassazione del 30% del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia. Questa agevolazione vale per 5 periodi di imposta, quindi per 5 anni incluso l'anno del trasferimento. Anche qua abbiamo una differenza rispetto al regime precedente, che prevedeva un'agevolazione maggiore del 70%, ma per un periodo potenzialmente minore. La condizione, il paletto che viene fissato nel decreto, è che la residenza permanga in Italia per almeno 2 anni. Ricordiamo che secondo gli ultimi dati Istat continua ad essere pesantemente negativo il saldo tra italiani che espatriano, 102.000 nel 2015, e che tornano, appena 30.000. Ora un focus sull'università, riprendono le immatricolazioni, più 1,6% nell'ultimo anno, ma l'Italia resta in fondo alla classifica europea per numero di laureati, 24% contro il 37% della media comunitaria. Cresce la quota di diplomati del mezzogiorno che si iscrivono in un ateneo del centro-nord, si registra dunque una fuga di cervelli in proporzioni superiori a quelle fisiologiche. Questa è la fotografia del rapporto Ambur sullo stato dell'università e della ricerca. Il vero allarme lo si legge tra le righe: a fronte dei buoni risultati raggiunti a livello internazionale dalla produzione scientifica dei nostri docenti e ricercatori, l'Italia sta perdendo in modo massiccio una generazione di ricercatori. La quota del PIL dedicata alla spesa in ricerca e sviluppo è pari solo all'1,27%. L'Italia è in ritardo anche rispetto all'occupazione dei giovani nelle aziende. Solo il 22% degli occupati sono millennials e i pochi giovani occupati sembrano non essere per niente soddisfatti del loro lavoro. Il 29% è scontento, per il 44% la retribuzione è inadeguata, 2 su 3 progettano di cambiare impiego. E quanto emerge dallo studio presentato da Rusan, il 61% dei giovani è disponibile ad espatriare, il 7% lo farà già nel 2016. E per la Commissione europea troppi giovani altamente qualificati svolgono mansioni non corrispondenti al loro talento e alle loro aspirazioni. Il loro tasso di occupazione è fermo al 52% in Italia e in Europa all'80,5%. Le competenze tecniche e manageriali sono il principale criterio di selezione utilizzato dalle aziende per valutare i profili più idonei alla mobilità internazionale, seguite dalla leadership e dalla conoscenza della lingua straniera. Lo rivela la nuova edizione del rapporto Expatriate di OD&M Consulting. Tema attrattività. La migrazione professionale verso l'Europa rappresenta solo una frazione sul totale dei migranti. La quota di immigrati con livelli elevati di qualifica è infatti inferiore a molte destinazioni OCSE. Solo il 30% dei migranti accolti nel continente ha un livello di istruzione elevato e l'Unione si dimostra poco capace di trattenere i giovani talenti laureati. Quasi immediata la risposta della Commissione europea, che ha proposto la revisione della direttiva sulla carta blu, il permesso di lavoro per attrarre i talenti da paesi terzi. La principale novità è l'abolizione degli schemi nazionali con la creazione di una blue card dalle procedure più snelle e sostenibili. Interessante notare come la prima edizione della carta blu europea sia stata praticamente snobbata dall'Italia, con soli 258 permessi di lavoro concessi a fronte dei 26.000 della Germania. Non è così che si attraggono i migliori. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in Svizzera con una forte proiezione internazionale, anche perché parliamo di musica e di come vi si investa realmente all'estero. Nome: Irene. Cognome: Abrigo. Età: 27 anni. Città di origine: nata a Torino, cresciuta ad Aosta. Studi: ho un master di violino, sono laureata a Dams. Anno in cui hai lasciato l'Italia: ufficialmente 2012. Per andare dove? A Losanna. Perché? Per continuare i miei studi e poi per lavorare. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono una violinista freelance. Dove? Di base a Losanna e poi dove mi chiamano. Tornerai? A viverci non credo, mai dire mai. La tua esecuzione di Astor Piazzolla per iniziare, Irene, e su queste note iniziamo proprio la nostra chiacchierata. In Italia osservo una quasi totale mancanza di cultura generale, soprattutto da parte della mia generazione e a seguire. Le persone non si interessano più all'arte come se fosse superflua o ancora peggio noiosa. Eppure l'arte è necessaria, soprattutto ai bambini. Così Irene scrivevi a giovanitalenti@radio24.it. E allora ti chiedo: che futuro ha un paese come l'Italia, culla dell'arte e della cultura a livello mondiale, che dopo decenni di TV spazzatura e sottocultura si scopre sempre più ignorante? Dal mio punto di vista è un futuro incerto, per sintetizzare una parola, soprattutto perché io parlo di cultura generale che va al di là proprio del concetto di arte stessa. Io intendo proprio l'educazione, il senso civico, lo sviluppare quel senso critico che ti permette di avere un'opinione vera, personale, quindi che, ad esempio, andare a votare quando c'è un referendum perché è il tuo interesse, non è l'interesse della classe politica. Tu che vivi in Svizzera ne sai di referendum. Il tuo amore per la musica va indietro nel tempo. Nel 2007 consegui un diploma di violino da privatista al Conservatorio di Torino. Cosa ti ha convinto a puntare la tua vita e la tua carriera sulla musica? In realtà non mi ha convinto niente, non mi sono mai neanche posta la domanda. Subito dopo il diploma prendi la strada della Svizzera, anche se da pendolare decidi di avviare un master a Ginevra. In cosa e perché la decisione di farlo all'estero e non in Italia? Ma in Italia in realtà non c'erano proprio alternative, nel senso che soprattutto quando io ho fatto il diploma, cioè, ho fatto ancora il diploma tradizionale, quindi non esisteva ancora biennio e triennio, era molto strano. In ogni caso oggi se mi dici ho fatto un biennio al Conservatorio X o ho fatto un master alla Royal Academy di Londra, non mi aspetto lo stesso risultato, ecco. Poi Ginevra era anche una soluzione strategica perché mio fratello studiava lì già da un anno, quindi era molto comodo. Ricordiamo che nel frattempo non avevi del tutto abbandonato il rapporto professionale con l'Italia, soprattutto Torino, dove continuavi a collaborare. Come giudichi l'educazione musicale che hai ricevuto in Svizzera? Sicuramente i corsi erano molto validi, con pro e contro, come in tutte le esperienze. Però devo dire, il mio professore mi ha dato moltissimo, docenti di musica da camera e progetti d'orchestra sempre di ottima qualità. Ne sono assolutamente uscita cresciuta. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. A Al termine del master a Ginevra prendi, anche contro il parere dei tuoi genitori, la decisione che segnerà la tua vita: trasferirti definitivamente in Svizzera. Come approdi a Losanna e per fare cosa? Losanna è stato, come si dice in francese, un coup de cœur, il mio colpo di fulmine, è proprio la città. I miei genitori, mio papà era un po' dubbioso, avrebbe preferito che continuassi i viaggi, però io volevo proprio vivere lì, quindi ho incontrato poi quello che fu mio professore all'epoca, Pierre Moyal, e entrai nella sua classe. Insomma, ho iniziato a vivere qui, la comunità, la città, la cultura, ed è stato magnifico, per questo ci sono rimasta. In Svizzera ho trovato un ambiente culturalmente florido, una struttura meritocratica che mi ha permesso di sviluppare progetti a cui miravo da tempo. Commenti. Ai progetti ci arriviamo tra poco. Cosa contribuisce nel concreto, chiedo, a rendere la Svizzera un luogo dove lavorare nell'ambito musicale? Ma innanzitutto basta aprire Google e cercare quante orchestre professionali, semiprofessionali, anche di amatori ci sono, senza parlare di associazioni culturali, centri, fondazioni, insomma, il mercato è veramente saturo. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Irene Abrigo, 27enne violinista basata in Svizzera. Nel paese alpino Irene si trasferisce presto per un master, dopodiché capisce che vi deve rimanere se vuole intraprendere la propria carriera artistica. Irene guarda l'Italia con molto distacco, dopotutto non riesce ormai quasi più neppure a venirci a suonare gratis, mentre all'estero arrivano sempre più numerosi importanti riconoscimenti professionali. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Punto di svolta nella tua carriera artistica arriva quando lasci la camerata di Losanna. In quel momento devi ripartire da zero, però lo definisci il tuo personale punto di svolta. Perché? Perché mi sono ritrovata senza lavoro, perché la camerata era la mia sola fonte di entrata ed era il mio solo contatto in Svizzera, per cui in quei casi lì o torni a casa o trovi delle soluzioni. Oppure, ecco, sono... esatto. E da quel momento prende via la tua carriera di freelance, che in Italia probabilmente sarebbe stata costellata di preoccupazioni. E invece ti chiedo, in Svizzera come funziona? In Svizzera è costellato di preoccupazioni pure, però sono diverse, insomma, sono diverse perché ci sono moltissimi musicisti freelance, comunque i progetti ci sono. La difficoltà qui non è la mancanza di progetti, ma è di entrare nel tiro giusto, quindi costruirsi una reputazione, fare public relation, uscire, incontrare persone, soprattutto mantenere sempre un ottimo livello per... Ecco, tutto un gioco di incassi e di conoscenze alla fine, se il livello c'è. Tu ti dedichi alla tua carriera da solista, con quali importanti riconoscimenti a livello anche internazionale? Sì, attività da solista è tra le altre che svolgo, diciamo. Oggi pochissime persone possono definirsi una cosa sola e soprattutto solista. Ho vinto qualche premio quando ero ragazzina, poi ho ripreso nel 2014, ne ho vinti 10 e sono arrivata finalista a Vittorio Veneto, che è il concorso nazionale italiano più importante di violino. E anche negli Stati Uniti. Nel 2015 ho vinto il premio Respighi, che mi ha portato appunto alla Carnegie Hall a febbraio scorso. A New York. Sì. Non dimentichiamo che da un paio d'anni hai cominciato anche a insegnare musica, è un progetto molto importante che hai realizzato in questi anni, è Pourquoi Pas, il tuo primo gruppo da camera. Come nasce l'idea di lanciarti in questa avventura e con quali fini soprattutto? Sì, sono un po' nate nello stesso periodo, perché a insegnare violino io non mi immaginavo che sarei mai riuscita, ma una mia amica stava preparando un concorso e quindi mi chiese aiuto e io l'aiutai, così insomma scoprì che insegnare è veramente è diventata poi una mia grande passione. E questa stessa amica, con lei abbiamo fondato Pourquoi Pas, che è un'associazione senza scopo di lucro che sostiene cause sociali attraverso la musica. Abbiamo collaborato con le Nazioni Unite per i rifugiati, per sostenere i rifugiati, e siamo volati in India a gennaio. Allora, la cosa che lascia però più malinconici nella tua storia è il taglio dei ponti che hai fatto con l'Italia. Dopo la laurea al DAMS di Torino, poco più di un anno fa, hai praticamente chiuso i rapporti con la penisola. È un problema di opportunità di lavoro? È un concorso di colpe, in realtà, il mio caso, poi ancora un po' di più. Per essere proprio sincera e schietta, all'inizio tornavo sovente a Torino, ma poco a poco le porte mi sono proprio state chiuse. Io non so se fosse invidia, non lo so. Lo vedevo dal comportamento dei colleghi e altri dettagli. E quando ho cercato anche di portare del lavoro in Italia, perché avevo l'opportunità di avere dei concerti qua, quindi magari cercavo dei colleghi italiani, sapevo che poteva far piacere, mi è stato addirittura una volta detto che non c'erano più le condizioni di lavorare insieme, delle cose assurde. Te ne sei andata e quindi no? E per bisogna fartela pagare. Non lo lo so, guarda, però dal mio punto di vista è successo così. Poi, per carità, io ci sono rimasta male perché a Torino devo comunque tanto. Irene, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? La mia critica, tra virgolette, più grande è la tendenza al lamento. Ecco, io è questo che soffro quando torno. Cioè, non c'è mai una reazione. Ci si piange addosso, però in fondo poi tutto va bene così. Secondo me bisogna ripartire da lì, ripartire dal reagire per cambiare le cose. Ci raggiunge ora in linea Michelangelo Lentini, anche lì violinista, ma a differenza di Irene, Michelangelo è rimasto in Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Con te affrontiamo l'altro lato della medaglia, quello di chi, anche lì violinista come Irene, in Italia è rimasto a lavorare. La prima domanda è spontanea. Come ce l'hai fatta? Ce l'ho fatta sfruttando le possibilità di lavoro che ho ritenuto più consone alla mia preparazione e ai miei titoli di studio. Ho iniziato a insegnare in conservatorio partecipando ai bandi per le graduatorie d'istituto, ho superato un'audizione personale con i solisti veneti diretti da Claudio Scimone, ho contemporaneamente curato i rapporti con le agenzie, spesso estere, e i direttori artistici per suonare ogni tanto anche qualche concerto da solista. Diciamo anche tu comunque come Irene lavori un po' a 360 gradi. Sì. A giovanitalenti@radio24.it ha inviato una serie di riflessioni che vorrei rapidamente affrontare. La prima tocca da vicino quest'epoca sempre più globale. Alla fine, lavorando sodo, si può vivere in Italia e avere collaborazioni all'estero. Quanto riesci tu stesso a vivere e lavorare tra queste due dimensioni? Devo dire che ci riesco benissimo. La mia attività concertistica si svolge per il 50-60% all'estero. Credo che oggi, insomma, grazie a una rete di collegamenti capillari, ci sono tante compagnie anche low cost, direi che viaggiare è diventato facilissimo. Con internet poi, insomma, basta sedersi davanti a un PC per essere collegato con qualsiasi posto del mondo, di conseguenza raggiungere anche qualsiasi paese del mondo è molto molto più facile. Identità musicale, radici musicali sono termini che ricorrono nel tuo racconto. Andare all'estero può farle perdere, può allontanare dalla fonte di ispirazione? Credo che sia un fatto che l'identità musicale italiana sia invidiata in tutto il mondo, no? In Italia sono nati i più grandi compositori, Vivaldi, Corelli, Tartini, i grandi operisti, e poi, visto che parliamo di strumenti ad arco come il violino, in Italia sono nati i più grandi liutai. Io penso che noi siamo in qualche modo testimoni di questa identità, no? E credo che sia un dovere esaltare le nostre radici in ambito musicale. Come noti, è anche una questione migliorare l'Italia, nel tuo caso da un punto di vista culturale, rimanendo qui e impegnandosi qui. La vedi anche tu musicalmente così impoverita, come ci ha raccontato prima Irene? Sicuramente i problemi ci sono e sono tanti. E il problema è che purtroppo per fare musica e cultura non bastano i musicisti come me, come Irene, ma si ha sempre bisogno di uomini illuminati che capiscano che investire in cultura nei teatri e nelle orchestre sia quasi un dovere per gli italiani. Tra l'altro è stato ampiamente dimostrato, insomma, che gli investimenti nell'ambito della cultura creano un indotto che ormai triplica l'investimento fatto. All'estero l'hanno capito bene. Diciamo che se l'Italia è musicalmente impoverita, i teatri chiudono e le orchestre chiudono, è perché non c'è la volontà politica di contrastare al di là delle parole. Michelangelo, in bocca al lupo per la tua sfida anche di rimanere qui e lavorare qui nell'ambito musicale. E domanda di rito per Irene: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Sicuramente che niente cade dal cielo, quindi ogni risultato richiede impegno e costanza in ogni paese e in ogni cultura. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: consulenti per la comunicazione a Ecoris UK nelle sedi di Bruxelles, Londra e Birmingham, scadenza per i CV 30 giugno, info su uk.ecoris.com. Un revisore manager per l'IT per la Bank for International Settlements a Basilea in Svizzera, scadenza per i CV 21 giugno, info su bis.org/careers. Infine, fate molta attenzione alla call dello European Patent Office, che cerca 200 ricercatori e scienziati per le sue sedi di Monaco e L'Aia. Scadenza per i CV 29 giugno, info su epo.org. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un progetto che arriva addirittura dalla lontana Australia. Un videodocumentario realizzato per una delle maggiori emittenti australiane, la SBS, che vede al centro i nostri giovani espatriati alle antipodi. Francesca Rizzoli, giornalista di SBS e autrice di Dear Italy, questo è il nome dell'iniziativa, ci racconta come nasce il progetto. Nasce dalla mia esperienza personale, perché io sono arrivata qui in Australia ormai da quasi 3 anni. Quando sono arrivata qui, come tanti, all'inizio mi sono ritrovata a lavorare nei ristoranti e a incontrare tanti giovani italiani che arrivavano qui in Australia. e capivo che il sentimento un po' di tutti noi era quello di risentimento un po' con l'Italia, no? Dicevamo, insomma, siamo andati via, adesso ci troviamo qui per così provare a cercare fortuna altrove. E sentivo che non ero solo io che sentivo un po' di risentimento appunto verso l'Italia, ma erano tanti altri giovani. Quindi a un certo punto mi sono così chiesta e mi sono un po' posta la cosa di come potevo dire e mandare un messaggio all'Italia per far capire quello che stava succedendo qui in Australia, quindi che non era una cosa solo che capitava a me, ma era una cosa che succedeva anche a tanti altri giovani. Quanti ne hai intervistati? Sono circa 8 appunto i personaggi che fanno parte di Italy. Sono ragazzi così, come me, che ho cercato di raccogliere un po' delle identità diverse, diciamo. Infatti c'è chi fa l'insegnante di italiano, c'è chi ha deciso di venire in Australia perché ha avuto l'opportunità di fare un dottorato, c'è anche un ragazzo che fa il trombettista, un ragazzo invece che fa il light designer, magari un lavoro che in Italia manco esiste, insomma. Quindi ho cercato di raccogliere un po' delle personalità diverse, così dei profili un po' diversi. Perché questi ragazzi hanno lasciato l'Italia e sono venuti fino in Australia? C'è chi ha scelto l'Australia perché sentiva molto parlare di Australia, infatti ci sono dei ragazzi che sono arrivati qui con il famoso Working Holiday Visa. Per altri è stata anche una cosa un po' casuale, diciamo, una cosa un po' caduta dal cielo. Cercavano di andare via, un po' di scappare dall'Italia ed è capitata l'Australia. Tu hai parlato di un messaggio che questi giovani hanno per l'Italia. Se dovessi sintetizzarlo? Nostalgia forse è la parola con la quale io potrei riassumere questo messaggio, una grande nostalgia. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.sbs.com.au e cercare Dear Italy. Un motivo per restare o tornare. Gli imprenditori giovani assumono di più rispetto a quelli anziani, lo afferma l'Istat nel rapporto annuale, sottolineando che nelle microimprese la creazione di posti di lavoro è influenzata anche dall'età dell'imprenditore. Lo scorso anno le aziende guidate da giovani imprenditori hanno aumentato i posti di lavoro più di quelle gestite da imprenditori anziani, soprattutto tra le imprese manifatturiere ad alta tecnologia, farmaceutica ed elettronica elettromedicale. E secondo la DD Invitalia Domenico Arcuri, le 600 startup finanziate con incentivi del fondo Smart & Start Italia stanno creando 3.000 posti di lavoro qualificati diretti e circa 8.000 posti di lavoro indotti. Per Arcuri, il 10% delle startup incentivate sono rientrate dall'estero e il 28% risultato di progetti universitari. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti o nella pagina Giovani Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di Radio 24. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Italia Place to Be, dibattetela in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo, ogni ultimo sabato del mese, leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di giugno. Buoni propositi per l'estate, scriveteci un'idea per rendere l'Italia più attrattiva, il luogo dove essere, the place to be. Invito rivolto a chi medita di andarsene e a chi invece vorrebbe tornare a vivere e lavorare qui. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidate, vi aspettiamo le vostre email a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.